per un capriccio ieri m'hai detto tu sei cattivo e non ti bacio più. Hai messo il broncio e il tuo nasetto è parso allora più voltato in su. Pioggia d'estate, son come te le lacrime versate, quanto l'amore a 18 anni fa soffrire il cuore. Ma basta un bacio per fugare il pianto, torna d'incanto la serenità. Pioggia d'estate, dopo le nubi par più bello il sol. Piangi bada, dagli occhi belli, sulle gotine scende tutto il blu, si sciupa le onde dei tuoi capelli, diventi brutta e non mi piaci più. Pioggia d'estate, son come te le lacrime versate, quanto l'amore a 18 anni fa soffrire il cuore. Ma basta un bacio per fugare il pianto, torna d'incanto la serenità. Pioggia d'estate, dopo le nubi par più bello il sol. Basta un bacio per fugare il pianto, torna d'incanto la serenità. Pioggia d'estate, dopo le nubi par più bello il sole. Oh,